Destati, destati, rivestiti della tua forza, o Sion. Indossa le vesti più splendide, o Gerusalemme, città santa, perché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti dalla polvere, alzati, siediti, Gerusalemme. Sciogliti i legami del tuo collo, figlia di Sion prigioniera, perché così parla il Signore. Voi siete stati venduti senza compenso e sarete riscattati senza denaro. Perché così parla il Signore Dio. Il mio popolo anticamente discese in Egitto per soggiornarvi. Poi la Siria l'ha oppresso senza ragione. Ma ora, che cosa faccio io qui? Oracolo del Signore. Sì, il mio popolo è stato deportato gratuitamente. I suoi tiranni erompono in grida di gioia, oracolo del Signore, e continuamente, ogni giorno, il mio nome è disprezzato. Perciò il mio popolo conoscerà in quel giorno il mio nome, poiché io sono colui che dice: eccomi. Come sono belli sulle montagne i piedi del messaggero che annuncia la pace, che reca una buona notizia, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, perché vedono con i loro occhi il Signore che ritorna in Sion. Esultate, acclamate insieme, o rovine di Gerusalemme, perché il Signore consola il suo popolo, redime Gerusalemme. Il Signore mette a nudo il braccio della sua santità davanti a tutti i popoli, e tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, partite di là, non toccate nulla di impuro. Uscite da lei, purificatevi, voi che portate gli utensili del Signore. Poiché non uscirete in fretta, non ve ne andrete come fuggitivi, perché davanti a voi marcia il Signore, e vostra retroguardia è il Dio d'Israele. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, elevato ed esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, talmente sfigurato era il suo aspetto, al di là di quello di un uomo, e la sua figura al di là di quella dei figli dell'uomo, così molte nazioni resteranno attonite. I re chiuderanno la bocca a suo riguardo, perché vedranno ciò che non era stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito.